Ok, benvenute a tutte le persone che sono qui presenti, a chi è in ascolto appunto tramite lo streaming. Come collettivo Gazza Freestyle e come assemblea del Forte Prenestino abbiamo sentito la necessità di creare un momento di informazione, di discussione e di dibattito che sia appunto sia un momento di scambio, sia anche un momento in preparazione al presidio che ci sarà questo venerdì 13 ottobre alle 18 in Piazza della Repubblica. Al momento appunto siamo qua con Mary, che è cooperante ACS Italia, cooperante appunto nella striscia di Gaza da 30 anni? Più o meno 20 anni. E aspettiamo Maya, che appunto è un po' in ritardo perché arriva da un altro appuntamento che ha avuto distante da qua e sta arrivando. E non rubo più già tempo, passo la parola a Mary. Allora, ciao. Certo, una roba organizzata molto velocemente. Intanto ringrazio tutte e tutti di essere arrivati e vorrei che anche i palestinesi in qualche modo, visto che in questo momento la solidarietà non gli viene assolutamente data, come non gli è mai stata data d'altra parte da parte di nessuno. Io effettivamente non dovevo neanche essere qua adesso, dovevo essere a Gaza, sono stata bloccata proprio, dovevo partire il giorno che è successo tutto il disastro e quindi per il momento i voli su Tel Aviv sono impossibili, sono tutti bloccati, per cui mi trovo in questa situazione che chiaramente mi fa un po' del culo, scusate il termine, perché comunque un conto è essere là dentro per capire che cosa sta succedendo, e chi è venuto dentro Gaza sa benissimo che cosa significa questa situazione. Non è la prima volta che succede tutto questo, che succedono gli attacchi militari. Certo, questo c'ha delle differenze notevoli. Non è un attacco di Israele su Gaza questa volta, è un attacco dei Gazawi verso Israele. Un attacco probabilmente, e poi se vogliamo insomma ne discutiamo più approfonditamente, studiato da molto tempo sicuramente, però chiaramente non viene fuori dal nulla, tutti si allarmano, la stampa Israele è rimasto così scioccato di questo attacco, ma sanno benissimo e se lo aspettavano benissimo, anzi io aggiungerei lo sapevano che prima o poi sarebbe successo, e anzi sapevano che anche tecnicamente sarebbe successa una cosa molto grave. Hanno lasciato perdere, queste sono anche le ultime informazioni che arrivano dagli egiziani, che avevano già avvisato Israele che ci sarebbe stato un attacco molto forte in vista. Netanyahu chiaramente non ha preso in considerazione queste dichiarazioni dell'intelligence egiziana, non era interessato, perché evidentemente Israele era molto più interessato a quello che sta succedendo nel paese di Israele, e quello che invece avrebbe potuto in qualche modo usare, manipolare, strumentalizzare rispetto ai palestinesi. E se lo aspettavano, se lo dovevano aspettare, ce l'aspettavamo tutti, lo sapevano i palestinesi, perché comunque quello che succede soltanto partendo dall'ultimo anno, dall'inizio di questo ultimo anno, quello che sta succedendo in tutta la Palestina occupata chiaramente è la storia di attacchi da parte dei coloni, attacchi da parte dell'occupazione sulla popolazione palestinese occupata, attacchi non banali, si parla di uccisioni, di invasioni, di terre che vengono tolte di case, di terre che vengono tolte ai palestinesi quotidianamente. In tutto questo quadro chiaramente nessuno si è impicciato, nessuno è andato a capire che cosa stava succedendo, nessuno ha posto l'attenzione di quello che stava succedendo, ma che non sta succedendo chiaramente da questo ultimo anno, sta succedendo, come sappiamo, da tanti anni, da quasi un secolo e da sempre. Tutti lo sanno, però nessuno, e lo sappiamo, è inutile anche ripetersi, delle volte mi sembra proprio banale tutte queste ripetizioni, tutti lo sanno che l'occupazione militare sta andando avanti, e se non risolvi la questione dell'occupazione militare sulle terre di Palestina non risolverai mai questo conflitto con la popolazione. Ormai direi che comunque il tipo di livello che hanno raggiunto purtroppo quelle due popolazioni, quello che non è uno Stato ma sono due autorità purtroppo divise, e lo Stato di Israele che chiaramente impera, continua a imperare perché come sappiamo è sostenuto fortemente insomma dagli americani, inutile dircelo, ma da tutta la comunità internazionale. Infatti chi è responsabile, e questo ci teniamo molto a sottolinearlo, chi è responsabile maggiormente di tutta questa situazione è la comunità internazionale tutta, che non è stata in grado, non ha voluto, non ha saputo fermare nessun tipo di sopruso, di non rispetto degli accordi delle Nazioni Unite, di rispetto degli accordi dei palestinesi con gli israeliani, di rispetti di tutti gli accordi che sono stati fatti in tutti questi anni. Quindi tutti lo sapevano che prima o poi sarebbe successo. La differenza è che chiaramente un'operazione del genere, che si sono preparati sicuramente le forze di Hamas, e adesso poi magari insomma qui magari le domande per chi non capisce o per chi non sa o per chi non conosce chi è Hamas nella striscia di Gaza, poi lo possiamo approfondire, però è un'autorità in questo senso rispetto alla Palestina, è un'autorità a parte dall'altra autorità che invece sta nell'altra zona della Cisgiordania, è un'autorità che in qualche modo da 13 anni comanda e detiene un regime che io definisco comunque un regime autoritario, non ha niente a che fare con l'antica lotta di liberazione del popolo palestinese, però è un regime che di fatto si è fatto forza dentro la striscia di Gaza, dando delle risposte, essendo l'unica parte diciamo della cosiddetta resistenza palestinese che in qualche modo dà il filo da torcere agli israeliani. E che quindi sabato 7 ottobre ha deciso di utilizzare questa preparazione che in tutto segreto abbiamo saputo che chiaramente aveva preparato in tutto segreto per un giorno X, e appunto ha messo in atto attaccando Israele all'alba appunto di sabato, e tirando un migliaio di missili verso le città israeliane. Faccio presente che dal 2021, che è stata non l'ultima ma una delle ultime più grosse, uno degli ultimi più grossi attacchi degli israeliani sulla striscia di Gaza, era terminata nel 2021, era terminata questa scaramuccia, questo attacco militare, era terminato con degli accordi i cui mediatori sono più o meno sempre gli stessi che sono sono il Qatar, l'Arabia Saudita e gli egiziani, era terminata con un accordo molto forte tra Israele e le autorità di Hamas, nel quale Israele, appunto con i mediatori, dichiaravano di non attaccare più Gaza se non avessero Hamas non avesse più attaccato il resto di Israele con i missili. Arrivarono a questo accordo nel 2021 dando, diciamo, anche dei contentini in qualche modo per far sì che appunto Israele non attaccasse Hamas non attaccasse Israele. Aveva fatto uscire un tot di lavoratori, per esempio, dalla striscia di Gaza, un numero molto esiguo rispetto alla popolazione. La popolazione di Gaza conta 2 milioni e 300 mila abitanti, sempre in continuo aumento, e quindi erano stati dati dove dentro chiaramente comunque continua a essere una striscia totalmente chiusa nelle frontiere e controllata nelle frontiere, e comunque aveva dato questo contentino di uscita dei lavoratori dalla striscia di Gaza, 16.000 lavoratori che vanno a lavorare in Israele. E su questo Hamas aveva dato la parola di non attaccare più con missili da nessuna parte. E è andata avanti per un po', ma gli attacchi militari di Israele comunque sono continuati dal 2021 fino ad oggi. L'ultimo appunto era stato anche quello di maggio scorso, dove Israele aveva attaccato in maniera così proprio deliberata, senza avvisare nessuno, aveva attaccato questa volta però il Jihad Islamico, non Hamas ma il Jihad Islamico, ammazzando 3 individui, 3 soggetti considerati super ricercati da Israele. Hamas anche in questa occasione non aveva assolutamente non era assolutamente intervenuto. Da quel punto di vista c'erano state molte critiche all'interno della striscia di Gaza, molte critiche da parte di tutte le fazioni, chiaramente compreso il Jihad Islamico, che appunto criticava Hamas per non essere più al suo posto di resistenza e combattimento verso Israele. A questo punto sono arrivati a decidere. Però voglio finire un attimo anche il quadro della situazione del paese, che è importante capire questa cosa, perché da quel momento in poi è cambiato anche il governo israeliano, un governo che è diventato un governo della destra, non che prima fosse di chissà quale rivoluzionaria idea, però il governo della ultradestra israeliana, che ha preso il potere appunto all'inizio dell'anno, e che è un governo formato da partiti, è molto importante questo perché è formato da partiti dell'ultradestra, che addirittura Israele non ha mai considerato dentro diciamo le loro formazioni di governo, quindi non erano mai stati nella Knesset, non erano mai stati considerati, anzi erano sempre stati attaccati, buttati fuori, non presi in considerazione. Netanyahu, pur di rimanere, che è l'attuale capo del governo, pur di rimanere comunque al potere dentro Israele, ha pensato bene che quelle elezioni, pur di vincerle per la quinta volta consecutiva, potessero stare dentro e quindi formare questo governo. Un governo che praticamente è formato da un'ultradestra che dava soltanto spazio esclusivamente ai coloni. E per chi ha seguito un po' la storia palestinese, appunto la situazione che c'era nei territori proprio appunto in tutto questo anno, l'unica cosa che succedeva dentro la Cisgiordania, dentro i territori palestinesi della Cisgiordania e in particolare dentro Gerusalemme, erano attacchi dei coloni alla moschea, alla spianata delle moschee, che è considerato il sito religioso più importante, ma soprattutto attacchi alla popolazione, ai contadini, alle città, ai villaggi, ai campi, con la presa delle terre indiscriminatamente, chiaramente coadiuvati, aiutati dall'esercito militare dello Stato di Israele, dello Stato ebraico. E quindi, vabbè, insomma, questo dicevo, è importante tenerlo presente, perché appunto di tutta questa situazione molto molto pesante, che appunto ha portato poi, cioè si sapeva che prima o poi insomma qualcosa doveva scoppiare, non si poteva, sicuramente i palestinesi non avrebbero potuto reggere una situazione del genere, tant'è che ci sono stati tantissimi eventi dentro la Cisgiordania di giovani, e anche questo lo vorrei molto sottolineare, che non facevano parte di fazioni politiche, non facevano parte di Hamas, non facevano parte nemmeno delle storiche fazioni politiche di lotta, di liberazione, dell'OLP, eccetera, eccetera, ma giovani che stanchi di essere uccisi quotidianamente, faccio presente che ogni giorno nei territori palestinesi venivano uccise 3-4 persone, 3-4 giovani, comprese le invasioni, soprattutto dentro i campi profughi, e gli arresti, quindi migliaia di arresti di persone X che non avevano combinato niente in quel momento, però considerati comunque presunti attivisti palestinesi, che sono stati messi dentro senza nessuna accusa e tuttora stanno dentro. Ecco, questo era un po' il quadro che si è presentato in questa situazione. Riprendo un attimo la cosa della situazione dentro Israele. Questo governo della destra, dell'ultradestra di Netanyahu, non è stato però ben visto dalla maggioranza della popolazione israeliana, tant'è che ormai da 6-7 mesi la popolazione che non ha votato il governo della destra israeliana faceva manifestazioni a richiesta di democrazia dentro Israele, manifestazioni molto forti, manifestazioni con scioperi, con scontri, manifestazioni quotidiane e manifestazioni sotto il governo con blocchi stradali, addirittura i militari israeliani si erano pronunciati, compresi parte dell'intelligence israeliana si erano pronunciati e avevano dichiarato che non avrebbero mai più sostenuto il governo di Netanyahu in nessun attacco se non veniva fermato questo governo di destra, ma soprattutto contestavano questa famosa riforma della giustizia. Ora Israele non ha costituzioni e la riforma sulla giustizia, la Corte della Giustizia, diciamo, era un po' l'unica garanzia, tra virgolette, che garantiva la famosa democrazia di Israele, l'unica forma. Riformando questa, che non era più in mano alla Corte della Giustizia, ma in mano direttamente appunto al governo dell'ultradestra, appunto la maggioranza della popolazione contestava fortemente questo. Quindi diciamo che nel paese, cioè in Israele, le proteste e il caos all'interno erano molto molto molto molto pesanti, insomma, e Netanyahu stava in bilico dal punto di vista della continuazione del suo potere politico dentro lo Stato ebraico. Questo è un po' il quadro, il contesto in cui si è trovato in questo momento a pensare questa autorità del Qassam, questa autorità di Hamas e in particolare il gruppo armato che appunto è questa fazione che si chiama Zedin al-Qassam, che in pratica si può dire è la parte militare, la parte che comanda dentro Gaza, anche se c'è poi la parte politica di Hamas che diciamo interfaccia con tutto il resto del mondo, insomma, anche se il mondo chiaramente per quanto riguarda il gruppo di Hamas, l'autorità di Hamas, non viene preso in considerazione, è anzi considerato il gruppo terrorista con il quale nessuno deve avere relazioni, tant'è che appunto nessuno tranne alcuni paesi arabi hanno diciamo le relazioni. Altro elemento assolutamente importante sono gli accordi che Israele ha cominciato a fare con i paesi arabi stessi. Allora sappiamo che già alcuni paesi arabi ormai da tanto tempo avevano relazioni e accordi e commerciali e militari e di controllo con Israele, tra cui appunto la Giordania, l'Egitto. Però ultimamente li stava facendo anche con paesi diciamo anche un po' più discussi, tipo l'Arabia Saudita. L'ultimo appunto è stato l'accordo con l'Arabia Saudita, che provengono poi da quella che era stata la decisione degli americani con Trump di fare questi famosi accordi di Abramo, che appunto avrebbero in qualche modo normalizzato tutto il Medio Oriente. Ora capisco che tutto questo quadro è abbastanza complicato, stargli dietro è abbastanza complicato, chi non lo segue insomma chiaramente può avere di certo delle difficoltà insomma a capire, però purtroppo abbiamo di fronte per chi segue un po' la politica internazionale, abbiamo di fronte sicuramente una situazione che è quella che il Medio Oriente è stato sbaraccato ormai dal 2011 in vari modi, no? Attaccando, ma poi si può anche cominciare da prima, insomma da quando gli americani hanno fatto la guerra in Iraq, eccetera, eccetera. Però insomma, per avvicinarci un po' di più ai giorni nostri, perché insomma sennò sembrano passati sembra passato un sacco di tempo, ma il cliché purtroppo rimane sempre lo stesso. Comunque dal 2011 diciamo questi tutto il Medio Oriente è stato completamente disastrato e non c'è più una situazione sicuramente di controllo. La Lega Araba, che era quella anche che in qualche modo manteneva gli equilibri tra l'Oriente e l'Occidente, tra il Medio Oriente e l'Occidente, non aveva più nessuna forza di posizionamento, e i vari paesi arabi, facendo e non facendo gli accordi con Israele, in qualche modo si garantivano un posizionamento. Dentro questo posizionamento c'è anche il Qatar anch'esso ha sempre avuto rapporti commerciali con Israele, ma è uno che rispetto alla striscia di Gaza, per esempio, è quello che in qualche modo gli ha garantito la sopravvivenza alla striscia di Gaza. È quello che nel momento in cui sono venuti meno tantissimi fondi, soprattutto quelli americani, ha dato, arrivava dentro Gaza con le valigette piene di soldi per la ricostruzione da una parte nei momenti in cui ci stavano gli attacchi militari che distruggevano e quindi ricostruivano tutto quanto, e in qualche modo avevano diciamo la predominanza. Tant'è che nell'ultimo anno addirittura hanno aperto l'unica ambasciata esistente dentro la striscia di Gaza, che è appunto l'ambasciata del Qatar. Però appunto ecco, il Qatar è dentro questo grandissimo casino e dentro questa grandissima formazione dominazione che appunto esiste nel mondo arabo, ormai io non posso dire normalizzato, poi non lo so insomma quali possono essere le opinioni, non è sicuramente normalizzato, vediamo in Libia che cosa succede, vediamo in Siria che cosa succede, in Libano che cosa sta succedendo. E i due diciamo più fedeli alla situazione in questo momento rimanevano comunque l'Egitto e la Giordania per quanto riguarda le zone più limitrofe a Israele e quelle che in teoria dovevano essere quelle più vicine ai palestinesi. Ritorniamo a sabato 7 ottobre e l'alzata delle forze di Hamas, del Qassam, che ha attaccato con 1000 missili, un diversivo tattico militare per appunto mettere in azione, non se l'aspettava lì per lì, da quello che dicono gli israeliani, io non lo so, non ci credo molto, però non se l'aspettavano, però in ogni caso hanno dovuto agire immediatamente con questo apparato militare che loro hanno, che è l'Iron Dome, che è un apparato che sta in cielo e che acchiappa i missili che arrivano da Gaza, e nel frattempo con una semplice ruspa Hamas ha buttato giù reti e muri e è sforato dall'altra parte. Per chi conosce un po' Gaza non ci sono tanti punti di uscita, diciamo, e le due frontiere sono quelle al sud di Rafa verso l'Egitto, l'altra è quella al nord di Erez verso Israele, che è un grosso terminal da dove passano le persone, diciamo, le persone, le macchine, le cose varie. E un posto di controllo che per entrare appunto dentro, chi è venuto con noi nella striscia di Gaza, molti dei ragazzi, delle ragazze, insomma dei compagni che stanno anche qui dentro, sono riusciti a venire dentro la striscia di Gaza, è un posto dove per entrare non si entra, non è che ti presenti allo sportello della polizia della frontiera, gli dai il passaporto e gli dici di entrare, serve tutto un coordinamento speciale, è impossibile entrare in altro modo, non si può, non è proprio ammesso, non è accettabile entrare in altro modo, solo le organizzazioni umanitarie cosiddette appunto possono entrare facendo dei coordinamenti speciali con i militari di questa frontiera che ripeto si chiama Erez, oppure le Nazioni Unite che chiaramente sono presenti dentro la striscia di Gaza, perché Gaza è composta da una popolazione il cui 80% è popolazione palestinese cosiddetta profuga, quindi sotto aiuti umanitari da 75 anni. E i consolati vari degli stati. Ecco, questa è l'unica modalità di entrata dentro la striscia di Gaza dal lato israeliano. Un grosso terminal con militari, con guardie armate, con tornelli, con camere blindate, tunnel, eccetera, eccetera. Una cosa del genere che appunto uno non, soltanto facendo sto coordinamento entri. Comunque con questa ruspa, questi del Qassam hanno buttato giù, Cristo e la Madonna, hanno buttato giù tutto quanto e sono riusciti a entrare, sono usciti da questa porta principale, che chiaramente diciamo in qualche modo ha sollevato le simpatie di tutti i palestinesi, ma non solo di tutti i palestinesi, perché finalmente appunto quella che una volta era la porta principale dove si poteva arrivare, dove i palestinesi potevano ricongiungersi col resto della Palestina, una volta era aperta e ormai da tanti anni invece era rimasta completamente sigillata, quindi questa diciamo uscita del Qassam da quella porta principale ha sollevato gli animi e ha dato un sacco di forza di felicità a tanti palestinesi, che però purtroppo, diciamo, in qualche modo è durata anche molto poco. Sono entrati da lì, da questo Erez, si arriva di fatto ai vari insediamenti che stanno tutti intorno a poche centinaia di metri dalla striscia di Gaza. Perché è strano, no? Perché sembra che chissà quanta strada hanno fatto veramente pochissime centinaia di metri per arrivare su un territorio dove una volta appunto ci abitavano i palestinesi, dove adesso ci stanno intorno kibbutz e insediamenti, oltre che parti del deserto, e sono entrati negli insediamenti dove avevano valutato, dove avevano studiato militarmente e di poter entrare, poi non soltanto da quel punto, ma anche dai tunnel che, come sappiamo, insomma, essere presenti non solo nella striscia di Gaza. I tunnel stanno in tutta la Palestina, i tunnel stanno in tutta Israele, stanno in tutta la penisola araba, da tutte le parti. Quella è una penisola che è un territorio dove sotto ci sono solo tunnel. Questi però erano, diciamo, ben preparati. Comunque sono entrati dentro questi insediamenti e senza se e senza ma hanno cominciato a sparare ai coloni presenti dentro gli insediamenti. All'inizio chiaramente c'è stata molta confusione, non sono arrivate immediatamente le risposte, nessuno ha capito che cosa stava succedendo, ma anche gli stessi israeliani in qualche modo, stranamente, e qui bisogna risottolineare lo stranamente, non erano presenti a controllare, come in genere fanno, gli insediamenti tutti intorno, soprattutto tutti intorno a Gaza. Tant'è che questa cosa poi verrà fuori nei giorni successivi da parte della popolazione degli insediamenti, quindi da parte degli israeliani, verrà fuori che non si capacitano di come i soldati, i militari che in genere erano presenti intorno a questi insediamenti, non fossero presenti in quella giornata, in quel giorno non c'era nessuno. Sono arrivati molte ore dopo, quando ormai, diciamo, gran parte degli israeliani erano stati o già presi dalle forze di Hamas o ammazzati dalle forze di Hamas. Quindi un'operazione lampo, un'operazione che in genere è solita fare Israele verso i palestinesi, molto solita. Purtroppo non è la notizia, diciamo, che è passata immediatamente, però purtroppo è così. Israele, quando entra, attacca i campi o attacca le città o attacca anche Gaza di solito non l'attacca via terra ma l'attacca via cielo con i bombardamenti, però insomma in genere quando arrivano sbaragliano e uccidono le persone, sono le prime cose che fanno. A Gaza in genere funziona che quando vogliono attaccare la striscia di Gaza per un qualsiasi motivo, e le motivazioni sono state tante, in genere attaccano con gli F-16, che è un armamento, diciamo, abbastanza potente, o con i droni armati, eccetera, quindi comunque buttano giù case, palazzi, la gente se riesce a fuggire fugge, altrimenti chiaramente rimane schiacciata dentro le proprie case, sotto le macerie. E così sono andati avanti le prime ore e il primo, diciamo, giorno di questo attacco, tenendo sotto scacco completamente appunto questo potentissimo esercito militare israeliano, che non è stato in grado di difendere i coloni tutti intorno. Non so se devo andare avanti o se mi fermo un attimo, perché poi c'è un capitolo ancora diverso che sicuramente deve essere, di cui dobbiamo assolutamente parlare, vogliamo sicuramente riportare, che è ancora più sconvolgente, perché dentro nell'andata dei giorni, quindi il primo giorno si sono verificati 300 morti israeliani immediatamente, ma dopo poche ore dal secondo giorno di questa occupazione militare di Hamas dentro gli insediamenti, con diciamo piccole battaglie con l'esercito, forze di Hamas sono planati nel deserto con come si chiamano? Il parapendio, con il parapendio a motore costruiti all'interno di Gaza, sono planati in mezzo al deserto, dove era in corso un rave di giovani, non c'era allora in quel momento, appunto, non c'era odore di questo attacco, non c'era la guerra, non c'entravano niente né con i coloni né con i militari. Era una roba che in genere molti giovani israeliani, ma non solo israeliani, perché c'erano giovani provenienti un po' da tutte le parti, stavano facendo un festival della musica per i cavoli loro. Comunque Hamas è planato su questo deserto, si è trovato lì migliaia di giovani, e anche lì ancora non abbiamo molte riprese e ben chiaro tutta la dinamica, tranne il fatto che si vedono questi che planano dall'alto e arrivano là sopra con pochi soldati, con pochissime guardie, neanche militari, neanche soldati, polizia. Dai pochi video che girano c'è la polizia israeliana che cerca di mandare via i ragazzi da questo pezzo di deserto. E poi l'attacco furibondo di Hamas e dei militari di Hamas, che sparano sui ragazzi e lì, diciamo, sequestrano la maggior parte delle persone, portandosele dentro la striscia di Gaza. Questi sono è quello che è successo dal punto di vista militare del Qassam, dell'attacco che il Qassam ha operato su Israele. Sono continuati, diciamo, dei combattimenti, e tuttora sono in corso dei combattimenti nelle aree di questi insediamenti, che poi quelli sono quella che, non so se ne avete mai sentito parlare, della buffer zone, quella che fu fatta, la famosa buffer zone che circa 15 anni fa venne fatta da Israele, quando nel 2005 i coloni vennero portati fuori dalla striscia di Gaza per volere di Sharon. Quella era la famosa buffer zone. E non lo so se mi fermo e poi magari andiamo avanti, però ho bisogno che magari, a parte di bere, però ho bisogno anche di magari di così mettere insieme un po' di robe. E però intanto saluto Maya. Wow. buonasera a tutti. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo, oltre a non sentirsi rappresentati né da una parte né dall'altra, quando il 7 ottobre io non sapevo se ridere o piangere, da una parte vedere comunque palestinesi che hanno rivendicato minimamente per qualche minuto un attimo di gioia, vedere i giovani palestinesi gioire, vedere il mio popolo gioire, e vedere anche, mi erano arrivate immagini dai campi profughi del Libano, perché i miei zii sono nel campo profughi di Burj al Baraj nel Libano, festeggiare, distribuivano dolci, sembra una cosa da matti, però il popolo palestinese questo sta facendo, cioè è inutile nasconderlo, l'avete visto anche voi, stavano festeggiando questo atto, e io ero contenta da una parte, ma avevo da un'altra ero preoccupatissima, proprio perché sapevamo che avremmo pagato a caro prezzo e stiamo pagando tuttora a caro prezzo. Molti ci dicono: sì, ma è un attentato terroristico. Sì, sicuramente è un attentato, forse è un attacco, definitelo come vi pare, però è un atto dovuto, è un atto che poi va contestualizzato, non è un atto singolo, non è un atto nato così dall'oggi al domani, è un atto che è dovuto a 75 anni di occupazione, dovuto a 75 anni di umiliazione, di diritti negati, di apartheid, di demolizione di case, di continua crescita di insediamenti illegali su Gaza, cioè vige un embargo militare, sicuramente Mary ha spiegato molto più di me, meglio diciamo, la situazione a Gaza, quindi non voglio ritornare a ribadire, quindi ovviamente condanniamo la violenza, cioè io sono una persona che non ho mai alzato le mani a nessuno, mai lo farò, perché condanno la violenza in tutti i modi, nonostante a me sono state alzate le mani, ho subito tantissimo bullismo quando ero alle elementari e alle medie, però non ho mai alzato le mani proprio perché condanno la violenza, però io non riesco a dire al popolo palestinese tu stai sbagliando o tu non puoi, perché io ho il privilegio di essere nata in Italia e noi abbiamo il privilegio di essere qua, di essere in sicurezza. Io non so se fossi nata in Palestina come avrei agito a vedere davanti ai miei occhi quotidianamente magari un padre ucciso, una mamma arrestata, o vedere davanti ai tuoi occhi la tua scuola, la tua casa demolita. Quindi sono generazioni che sono cresciuti sotto shock psicologici, sotto diciamo traumi. Cioè, un ragazzo di 17 anni ha vissuto l'operazione del 2008-2009, piombo fuso, ha vissuto poi 2014 dove è stato utilizzato il fosforo bianco, è stato riattaccato nel 2018, nel 2021, quindi è una generazione cresciuta sotto dei bombardamenti, solo questo hanno visto. Per cui quando anche io sento dei solidali condannare la resistenza palestinese definendola che alla violenza non si risponde con la violenza, e molti messaggi mi sono arrivati anche sui social, io penso che noi da solidali non possiamo metterci e dire qual è la resistenza giusta e condannarla. Ovviamente ci dobbiamo mettere nei panni di chi subisce. Cioè, basta fare un piccolo esempio. Cioè, voi immaginate che arrivano così dall'oggi al domani un gruppo di persone che vi prendono casa, dove vi dicono noi vi occupiamo la casa, ma vi diamo una piccola stanza, e per anni, per 50 anni vi continuano a menare, arriva il palestinese o comunque voi agite, date questo schiaffo forte e vi sentite un attimo contenti e poi tutto ribaltato, cioè insomma è una situazione veramente complessa quello che sta accadendo, anche quando si parla sì ma sono morti civili israeliani, ho ricevuto anche commenti del genere, sono morti mentre stavano ballando durante... È vero, ma perché è stato scelto proprio il confine di Gaza? Cioè è come se a pochi chilometri non ci fosse la più grande prigione a cielo aperto. È come se, forse i palestinesi sono stati anche sentiti un po' sfidati, cioè perché ignorare che a pochi chilometri c'era una situazione pessima, ed è quello che vive tutta la Palestina. Cioè, oltre quel muro di apartheid nei territori del 48, gli israeliani vivono una situazione e i palestinesi tutt'altra. Quindi anche il termine civile per me, ovviamente ripeto, vedere quelle immagini per me è forte, e sono contro l'uso di tutta quella violenza, non dovevano essere presi in ostaggio donne e bambini, però forse io sono contro il termine civile, perché comunque sono dei coloni. Forse molti di voi non sono d'accordo, però sono dei coloni, nel senso, quindi utilizzare questa parola non lo so, ne siamo contro ovviamente il modo in cui sono stati trattati, però e poi mi chiedo perché Israele ha sempre attaccato la Palestina, una volta che la Palestina ha attaccato, la resistenza palestinese ha attaccato, si è scoppiato il putiferio, quindi questi doppi due mesi, due pesi, due misure, insomma. Sono abbastanza agitata, quindi non riesco a a parlare tantissimo, cioè sto ancora tremando per quello che è accaduto. Lascio un'altra volta la parola a Mary e poi magari si apre un'assemblea con domande. Cucciola. Beh, certo, Maya, hai dato uno spaccato della società palestinese esattamente come è attualmente e tutta la situazione che purtroppo ci sta lì. Di fatto la Palestina è spaccata. Indipendentemente dalle forme di resistenza, io ritengo che il popolo palestinese, la cui resistenza appunto dura veramente da un sacco di tempo e ha dovuto scontrarsi di fatto con tantissimi e determinati periodi storici, momenti particolari, rivolte, contraddizioni, un sacco di cose, di fatto però la vera resistenza, mi dispiace, ma l'ha sempre fatta soltanto la popolazione civile e è sempre stata quella più che armata in alcuni momenti, è stata proprio quella civile. Quindi è stata la popolazione civile che ha garantito ad oggi la resistenza e la presenza della popolazione, della giusta presenza di quel popolo dentro quella terra, di fronte sicuramente a un progetto molto particolare che ognuno, di cui ognuno appunto ha una propria così, ha una propria idea. Io infatti magari così, anche per iniziare un po' un attimo la discussione, perché è chiaro che sono diversi gli stati d'animi, personalmente, per quanto io, sono molti anni che seguo quella situazione, in effetti sono quasi 40 anni che la seguo fisicamente, anche che sto anche lì, al di là di da quanto tempo ci lavoro, però sono tanti anni e sicuramente ho visto tanti, così come anche tanti di noi insomma, che hanno una certa età e hanno continuato ad andare in Palestina, perché sicuramente era l'esempio di una resistenza di liberazione di un popolo che voleva arrivare molto avanti. C'è arrivata non con la liberazione, c'è arrivata con un sacco di contraddizioni, con una fatica e delle difficoltà molto molto grosse, però appunto sono diverse le situazioni che ci stanno oggi. Vorrei soltanto riportare quello che sicuramente le nuove generazioni in Palestina, che a differenza di Maya, che è nata in Italia e che quindi ha uno specchio, ha un vissuto diverso, è arrivata alla conoscenza della Palestina nei suoi anni in avanti, quando il suo papà, la sua mamma gli avranno raccontato che cos'era la Palestina, ma non l'ha vissuta lì, mentre invece lì sicuramente i ragazzi di queste ultime generazioni hanno vissuto, sono cresciuti in una situazione che chiaramente è stata di sopruso, continua ad essere di sopruso. E quello che dicono, e io voglio riportare soltanto quello che dicono i ragazzi e le ragazze che oggi vivono nella Palestina occupata da una parte e nella Palestina occupata e straoccupata dall'altra, perché è occupata due volte, e io mi dispiace ma ritengo, avendo vissuto dentro Gaza, vivendo dentro Gaza tuttora, se ci riesco a rientrare, quello che ti dicono i ragazzi e le ragazze è che certo è occupata dagli israeliani da sempre e quella narrativa non la scorderanno mai, ma è anche occupata da un'autorità che sebbene lancia i missili per la resistenza verso Israele, può far contento in un attimo una situazione, non possono vivere lì dentro, tant'è che oggi la gente tenta, no, non oggi perché ci stanno i bombardamenti, ma oggi ormai da diversi anni queste nuove generazioni, soprattutto questa ultima generazione, tende a fuggire dalla striscia di Gaza e anche dal resto dei territori, perché non è che stanno meglio quelli che stanno dall'altra parte, insomma. Quindi certo, è lo specchio proprio della grossa contraddizione, delle grosse difficoltà che ci stanno dentro quel paese. No, vabbè, stavo perdendo un applauso. L'ho radiato così. No, non so se vogliamo passare comunque a un momento un po' più di domande, discussioni, dibattiti. C'è una domanda, devo dire una cosa. Allora, chiediamo solo l'intervento al microfono, così che si possa sentire appunto anche in continuazione sullo streaming. Ciao a tutte e tutte, no, io volevo darvi un'informazione e poi fare una domanda. L'informazione che ho raccolto in queste ore è che questo rave, perché questa cosa del rave oggettivamente ci ha colpito un po' tutti, festival. Perché in pratica era questo universo parallelo che è un franchising, lo fanno in Brasile da molti anni, è capitato che fossero lì, ma la cosa interessante, non so se l'ho letto su Billboard andando a scavare, che gli hanno cambiato il luogo 2 giorni prima, cioè loro non dovevano farlo lì, dovevano farlo in un altro posto. Quindi stranamente viene cambiata la location e piazzato proprio a Reim, no? a pochi chilometri di fatto ora è chiaro che organizzare un festival in un posto è come se avessero fatto, che ne so, messo su una balera fuori da Auschwitz, no? Mentre dentro moriva, insomma è una cosa orrenda da pensare, insopportabile. Però forse da vecchio raver un po' sta cosa mi ha colpito, il fatto che su queste persone, no, poi ci sia stato questo accanimento. Io penso che possa, ripensando a quello che è il nostro percorso, ripensando alle parole di Vittorio, restare umani in questo caso, riuscire a distinguere e dire che questa cosa è brutta e che non ci piace, secondo me è una cosa che dobbiamo anche proprio per liberarci di un peso, di dire, cioè non tutto funziona. È chiaro che io, insomma, mi conosco, per chi non mi conosce, insomma la Palestina è un pezzo di cuore, proprio, quindi figuriamoci se non penso che quell'azione sia stata, no, giusta, di più, assolutamente necessaria in quel momento, proprio per tutto quello che è stato detto prima, non ripeto. Però quel momento là sopra, su dei ragazzi, mi immagino questi sconvolti che scappano nel deserto, cioè è una scena veramente apocalittica che non augurerei a nessuno. Questo solo, però volevo sottolineare questo spostamento che di fatto è molto strano che sia accaduto. Quindi questo significa che chi ha programmato quell'azione non poteva avere idea che lì ci si trovasse questo re, perché non era proprio previsto lì, e non è una cosa quella che è successa il 7 ottobre che si organizza in 2 giorni, e quindi evidentemente questo è stato un elemento, questo giusto per fornire un altro pezzetto. La domanda invece è un'altra, ovvero io sento parlare solo di Hamas, mentre guardando e leggendo intorno, insomma, vedo che FPLP ha non solo rivendicato ma ha partecipato attivamente, immagino che Jihad Islamica ci sia stata dentro, ma non solo, Hamad Zumlat, comunque l'ambasciatore dell'OLP in UK, quindi nel Regno Unito, durante diverse interviste che ho visto anche con l'Ammanpour, insomma cose ufficiali, ha preso una posizione molto decisa a favore dell'azione, cioè si è rivendicato Hamad, quindi l'ambasciatore nel Regno Unito dell'OLP, ha rivendicato pienamente. Ora dico, allora, si parla solo, quindi non si parla di un sollevamento della popolazione palestinese contro decenni e tutto quello che sappiamo, ma si parla solo di Hamas. Allora vorrei capire, questa è una strategia oppure è oggettivamente solo Hamas, oppure quella a cui stiamo assistendo è una sollevazione? Adesso stavo vedendo a Hebron, a Betlemme, e non so, senza parlare del confine con Libano, dove stanno sparando il fosforo bianco sul Libano, chiaramente, come lo stanno facendo su Gaza. Noi ce lo ricordiamo meglio perché siamo andati proprio a prendere i pezzi per analizzarli, quindi è una roba orrenda che sta succedendo. Ecco, però la domanda è: siamo davanti a una sollevazione di un popolo o alla, come dire, mossa per avere una propria autorevolezza di Hamas solamente? Vabbè, io sempre devo ritornare dentro la striscia di Gaza in questi anni in cui Hamas ha preso il potere dal 2007, quindi da quando hanno cominciato a stare lì dentro, dove chiaramente la prima cosa che ha fatto Hamas, me lo ricordo bene perché stavo là dentro, nel momento in cui hanno proprio fatto la divisione e preso il potere dentro la striscia, cacciando tutta una parte di autorità palestinese che fino a quel momento, ok, Hamas aveva vinto le elezioni, è vero, avevano vinto le elezioni e dovevano avevano vinto le uniche elezioni che avevano fatto dopo 10 anni, le vinci e devi comandare, ok, non se l'aspettavano manco loro in realtà, però poi presero, nessuno lo ha riconosciuto, nessuno ha riconosciuto quella vittoria, nessuno gli ha dato la possibilità, anzi carcerarono, mi ricordo, immediatamente l'autorità palestinese dall'altra parte, carcerò immediatamente quelli che nella lista erano di questa cosa civica di Hamas, li incarcerarono e poi li dettero agli israeliani, e dentro Gaza questi stavano lì dentro, presero tutti quelli dell'autorità precedente, una parte li uccisero, un'altra parte li buttarono fuori, e da allora il regime di Hamas, quello è successo, quello non ce lo siamo inventato, io l'ho visto, purtroppo me lo sono visto, è stato il capitolo della lotta palestinese più brutto che abbia mai visto in vita mia, però l'ho visto, si sono ammazzati, e quelli si sono ammazzati fin quando Fatah appunto decise, l'allora autorità decise appunto di non fare la battaglia finale, quindi dare il via alla guerra civile, decise di uscire, di buttare le armi. Forza 17 buttò le armi e se ne andò fuori, quindi da lì l'inizio del regime, e certo quel regime è stato un regime, tant'è che le associazioni vennero chiuse, le cose sportive vennero chiuse, venne chiuso tutto di fatto, l'oscurantismo da quel punto di vista, e quindi il potere che doveva mantenere Hamas se l'è cominciato a costruire da quel momento in poi. Quindi la strategia sicuramente di mantenere un potere all'interno della striscia di Gaza, mi dispiace, ma Hamas ce l'ha avuta, poi avrà fatto pure, avrà fatto, certo che ha risposto agli attacchi israeliani come Cristo comanda, qualche volta come Cristo comanda, però di fatto è certo che sicuramente i palestinesi in qualche modo hanno esultato per queste loro risposte, però di fatto là dentro la striscia di Gaza, se parli con la gente, sicuramente non appoggiava completamente Hamas, cosa che però purtroppo questo piccolo passaggio non l'ha mai capito né la comunità internazionale, non l'ha mai capito, e Israele non gliene frega assolutamente di capirlo questo, anzi la punizione collettiva per Israele, proprio perché Hamas teneva ben salda questa autorità all'interno, e sicuramente insomma diciamo gli faceva più che comodo, tant'è che appunto alcuni passaggi probabilmente gli fanno tuttora molto comodo. Poi non lo so, il resto io non so rispondere esattamente a tutto questo, so soltanto che se prendi tutta la popolazione palestinese della striscia di Gaza, non te lo dicono se stanno là dentro che non stanno con Hamas, ma se vengono fuori te lo dicono che non ci stanno con Hamas. Quindi ripeto, è stato molto importante e i palestinesi sono stati molto felici nel momento in cui a Israele gli è arrivata una schicchera del genere, però posso dire che in questo momento dall'altra parte stanno anche molto allucinati. Non lo so se qualcun altro, insomma, ha sicuramente ha la possibilità anche di, cioè è stato, molti di voi so che sono stati in Palestina, molti di voi so che ci sono, che ci stanno, seguono tutta la questione, quindi un'idea di questa situazione sicuramente ce l'hanno. Ora, questo è chiaro che non vuol dire che ci si deve aggiustare e mettere insieme con chi oggi considera questa azione un'azione terroristica. Anch'io non la considero un'azione terrorista, assolutamente, è un'azione di rivolta che ha fatto quell'autorità lì dentro e che sicuramente prima o poi doveva succedere sicuramente con il, doveva essere un'azione del popolo, ma il popolo sicuramente non ce l'ha fatta a fare, ma no, dentro Gaza sicuramente nessun altro avrebbe avuto la possibilità di fare un'azione del genere, perché anche Hamas stesso non lo permetteva. E voglio ricordare anche che durante le marce del ritorno, compresa questa ultima, Hamas non è che dava tanto permesso di arrivare alla frontiera, al border, dove poi Israele ammazzava e ha ammazzato tutta quella gente. No, non gliela dava mica. Sai quante volte hanno fermato la gente che andava al border perché non voleva casini da quel punto di vista, cioè tutta una serie di cose. Ora, tutta questa questione sicuramente non la sa la stampa, non la sa la comunità internazionale, non la sanno in tanti, non conoscono niente di Gaza, in tanti non conoscono niente di Gaza, gli stessi israeliani non sanno assolutamente, pensano che tutta la popolazione di Gaza, perché resiste dentro a stare, a continuare a vivere dentro quella terra, sia tutta schierata con Hamas. Di fatto non lo è, di fatto è vero che non lo è, lo schieramento e la resistenza è completamente diversa. Quello che dico è che comunque, cioè, io non vorrei creare una spaccatura da quel punto di vista, perché poi ripeto, sono le decisioni dei palestinesi, sono loro che devono parlare per quanto riguarda come gestire il loro paese. Di certo non siamo noi che lo possiamo dire, noi possiamo giusto dare delle considerazioni e la solidarietà che rispetto alle idee di ognuno di noi, insomma, ci sentiamo di poter dare e continuare. Sicuramente sulla popolazione civile, sicuramente sulla mancanza totale dei diritti umani che esiste verso il popolo palestinese, ma la mancanza dei diritti umani, quella è data da altro, è data proprio dalla situazione che comunità internazionale, America e tutto il resto ha deciso di sottoporre quella popolazione, ha deciso di sottoporre la Palestina. Io volevo condividere un messaggio audio che ci è stato mandato appunto apposta, non so se nel flyer c'era appunto scritto di un possibile collegamento da Gaza, e abbiamo sentito Mohammed dal campo di Jabalia. L'ho sentito un'ora fa, però diciamo che per avere connessione doveva scendere per strada, andare in un angolo particolare, la strada è completamente buia, non hanno internet eccetera, quindi gli ho proposto di mandare un messaggio vocale anziché, insomma, mettersi sia in pericolo che utilizzare magari un internet che non è così necessario, insomma, in questo momento. E creiamo un attimo uno stacco con questo messaggio di Mohammed. Non so se devo fare qualcosa qua al mixer. Buonasera a tutti, sono Mohammed di Gaza, di Nord di Gaza, campo di Jabalia. Prima cosa voglio dire, chi Gaza? Gaza è una città piccola, 370 chilometri, abitanti 2 milioni e 400 quasi. E Gaza sotto il controllo israeliano. Gaza veramente, posso dire, un carcere grosso, grandi. Noi sotto l'occupazione quasi palestine, palestinesi, siamo sotto l'occupazione 75 anni. Ogni giorno gli israeliani uccisero la gente, bardamento, la casa, la strada, anche la nostra la vita, la nostra sogno. Loro anche uccisero la nostra figlia, il nostro futuro. E veramente questa volta l'azione generale a Gaza è veramente dura, molto dura, anche non posso immaginare e quando brotta la guerra. Quasi 200.000 persone adesso loro lasciate a casa, loro paura. Le coalizioni hanno mandato un messaggio per tutti che vicino al confine. C'è gente andata a casa, qualcuno, cugino, fratello, o c'è gente andata alla scuola, scuola in Norwa. Veramente Gaza, come ho detto prima, è un posto piccolo, sempre chiusa, non c'è niente. E adesso veramente Gaza manca la luce, manca il corrente, manca l'acqua, manca il mangiare, manca la medicina, manca quasi tutti. È veramente le occupazioni, gli israeliani, loro bardamenti, chi cammina loro bardamenti, la scuola, anche gli ospedali, anche la moschia, anche l'ambulanza, anche la casa, e quasi loro bardamento 7.000 casa, veramente 7.000 casa. Falliti quasi 4.500 persone, mortano palestinesi quasi adesso vicino 1.000 persone. È veramente la situazione generale molto molto molto dura, la gente loro preoccupare, anche loro pensate anche chi viene peggio che è andato. Per questo loro tutti, anche noi aspettiamo il peggiore, ancora aspettiamo il peggiore. Niente, io comunque Mohammed non ha mandato questo messaggio WhatsApp audio per fare sicuramente pena, perché il popolo palestinese non ha bisogno di pena, ma piuttosto per creare delle suggestioni o degli input riguardo a anche domande o perplessità che si hanno. Quindi lascerei questo posto appunto per spazio alle nostre teste. Buonasera a tutti. Sì, è proprio una suggestione quella che volevo rimandare. L'ha ripetuto 3 volte Mohammed, ogni giorno. E questa è un qualcosa. Vi invito a riflettere su queste 2 parole. Ogni giorno, every day, è un po' la realtà che si vive. Questa è la suggestione che prendo e che rilancio, perché credo che sia un punto focale se siamo qui riuniti, poi conoscendo tante persone, conoscendo la storia di tutti noi, abbiamo sempre focalizzato sulla controinformazione la nostra azione, giusto Manolo? È il cuore, perché esiste un racconto che poi adesso si chiama narrazione, insomma, da quando esistono le serie e quant'altro abbiamo preso questo linguaggio, però esiste un racconto falsato della storia, di quello che ci viviamo, e quello che abbiamo sempre provato a fare dal basso, questo è un luogo che rappresenta fisicamente un fatto concreto di quell'azione dal basso, e è quello di raccontare le cose oltre quella cortina fumosa dei media, la narrazione, appunto, usiamolo questo termine anche noi, che viene compreso in maniera più facile, la politica, la finanza e tutto quello che c'è dietro. Quindi c'è un racconto molto particolare. Questo per quello che riguarda la suggestione. Credo che sia importante, perché quello che stanno raccontando i media oggi è che fa scalpore, che sta creando scandalo, gridano tutti l'orrore, l'orrore, l'orrore. Chi è dentro la notizia sa che per i palestinesi è ogni giorno a Gaza come in Cisgiordania. Allora, una domanda importante, perché ho bisogno di allargare la visione, credo che sia importante un po' per tutti uscire da Gaza con la mente e arrivare in Cisgiordania, quindi allargare ai palestinesi tutti, in Italia, in Francia, dove vivono i palestinesi, perché comunque, insomma, sottolineo che Maya non ha mai visitato la sua terra, giusto Maya? È nata qui, non ha diritto a quel ritorno, per come stanno andando le cose, per come continuano ad andare. E dopo 30 anni ho capito cosa significa l'accordo di Oslo, ci ho messo un po', sono un po' lento, lo ammetto, però è stata una mannaia tremenda quel momento, 30 anni fa, ricorso pochi tempi fa. Quindi la domanda che faccio a voi, ma a tutti quelli che possono rispondere, è... ci aiutate a vedere oltre Gaza, ad andare in Cisgiordania, a capire cosa sta succedendo lì, perché è più difficile in questi giorni avere notizie dal resto della Palestina, molto più difficile, perché si focalizza tutto lì, anche per tutto quel circuito indipendente che invece manda sempre notizie. Piccola notizia di cronaca reale: quest'anno c'è stata un'escalation di morti palestinesi tra Gaza e nei territori occupati, chiamiamoli così perché tali sono, diciamo, si è toccato quota 250 prima di questo attacco, non era mai successo, era il numero più alto, e lì le uccisioni avvengono per niente, gli arresti e le uccisioni avvengono anche per il semplice fatto di portare, uscire di casa con una bandiera palestinese, perché la bandiera palestinese non è fuori legge, però ci sono poi tutta una serie di vincoli per cui si può dire che si istiga il terrorismo, e quindi una bandiera palestinese sventolata porta all'arresto e poi non si sa più nulla. Quindi che succede di là? Io ero abituato alle notizie per cui i cadaveri non venivano restituiti, venivano trattenuti, congelati per mesi per non ridarli ai familiari, per non far fare i funerali, diciamo, quando poi morivano i martiri. Mi invito tutti pure a una riflessione su questa parola martiri, perché negli ultimi anni, dalle Torri Gemelle in poi, il martirio per noi sembra proprio il fondamentalismo cieco, no, ma un martire significa altro, secondo me. Aiutateci a capire, appunto, torniamo alla popolazione civile di cui parlavi tu, Mary, cioè tutta quella popolazione che in questo momento più che mai può, partendo da questi ultimi fatti, tornare ad avere una visibilità, se qualcuno riesce a trovare un canale di comunicazione che riesce a sfondare quella cortina di fumo, perché secondo me questa è la chiave in questo momento. Grazie. Bella me. Abbiamo iniziato con la prima intifada, no Mary? Tu a casa al Bernocchi e noi qui a Centocelle. Maya, io ti riconosco come legittima rappresentante del popolo palestinese, e questa credo che sia l'assemblea, la prima assemblea cittadina, insomma, che facciamo su questo tema qua. Abbiamo fatto un comunicato, adesso non mi sento di dire che parlo a nome dell'Ampi del Quinto Municipio, però abbiamo fatto un comunicato ieri, come tre sezioni dell'Ampi del Quinto Municipio, lo potete vedere sulle nostre pagine Facebook dell'Ampi Centocelle e Ampi Villa Gordiani. Ci abbiamo messo 2 giorni perché abbiamo dovuto discutere perché ovviamente le immagini, quelle che ci arrivano, no? È la guerra, nella guerra succedono i massacri, nella guerra succedono uomini, donne, bambini, è la guerra. Quindi io non parlerei dei cadaveri, non parlerei dei, cioè dobbiamo andare avanti secondo me nel discutere su quello che succede. Tante domande sono state fatte stasera, non penso che troveremo tutte le risposte, quindi io ritornerei alle ultime parole del compagno e delle tue, no? Noi che possiamo fare? Allora, la solidarietà e quindi a fianco del popolo, sempre del popolo palestinese. Poi tutte le dinamiche che all'interno del popolo palestinese, che comunque secondo me rimane un popolo che non è in grado di poter esprimere completamente, democraticamente in qualche modo una sua legittima rappresentanza lì nei territori. Ci sono troppi casini, troppi interessi, troppi sordi, i poteri, c'è l'Iran, c'è l'America, insomma è stato detto, lo sappiamo. Però la realtà è questa, è tragica, noi dobbiamo prendere posizione, andare in piazza. Quindi ci dobbiamo andare con delle chiare parole d'ordini che sono a fianco del popolo palestinese, contro la guerra, perché comunque 3-4 cose chiare le dobbiamo dire, perché lo siamo sempre stati contro la guerra, no? Contro le guerre. Siamo sempre stati a fianco del popolo palestinese, siamo sempre stati contro il colonialismo di qualsiasi natura. Il nostro paese, le cose che stanno succedendo lì sono successe sempre, il nostro paese le ha fatte in Etiopia, le ha fatte in Libia, cioè non è che sta succedendo qualcosa di nuovo. Drammaticamente oggi ci sbattono in faccia, però va avanti così dentro quello che è il conflitto generato appunto da un potere capitalistico, imperialista, colonialista, chiamiamolo come ci pare, è chiaro. Noi stiamo da questa parte della barricata, loro stanno da là, sono i nostri nemici, su questo non c'è più. Però poche cose chiare, secondo me stare in piazza, perché sarà la prima manifestazione comunque cittadina in cui il ruolo, come dire, io gliel'ho detto chiaro e tondo a Maya, per me lei è la mia legittima rappresentante del popolo palestinese. Noi giovedì, dopodomani ci abbiamo il comitato provinciale dell'AMPI, all'ordine del giorno non c'era questo tema perché l'ordine del giorno è stato fatto già 15 giorni fa, ma sicuramente parleremo di questo. E sicuramente ci sarà anche il problema dell'adesione o meno a questa manifestazione. Io mi batterò per darla e te lo dico, quindi sono disposto anche a scontrarmi con i miei dirigenti cittadini e nazionali. Com'è che l'ha intitolata questa assemblea? Palestina anno zero? No, perché mo mi stava venendo in mente. Chi è che voleva? Chi voleva? Sì, sì. No, Palestina anno zero, perché in effetti da ora in poi, considerando, no, che è un altro elemento appunto di discussione, no? Perché non so se io l'ho seguiti, in genere non li seguo, insomma, le TV italiane non le vedo mai, insomma, giusto se quando sto giù mi collego a Rai News 24 ogni tanto, ma in sti giorni un tartassamento di TV italiane per sentire, ma soprattutto più che i telegiornali, e tutti i show, i talk che fanno di questa roba, giusto per capire quali sono gli orientamenti. E vabbè, la sfilza lo schieramento che c'è stato, insomma, in tutti questi talk, le varie parlate che fanno nelle varie TV, è quella ormai dello schieramento totale per Israele. Sì, anche prima, però almeno qualcuno prima, cioè ogni tanto c'era qualcuno che parlava, che in qualche modo dava il sostegno ai palestinesi, o comunque lo nominava. Adesso in queste ultime robe ho sentito Conte, che è l'unico che ha detto vabbè, i 5 Stelle, guarda, che è l'unico che ha detto vabbè, però se noi non facciamo gli uni e gli altri non finiremo mai, cioè è stato l'unico che ha detto sta cosa, perché nessun altro ha nominato appunto i palestinesi, sono tutti molto schierati soltanto su Israele. E chiaramente appunto purtroppo così come ci è stato rappresentato questa sfuriata di Hamas in questo momento, chiaramente hanno tutte le ragioni da quel punto di vista, tra virgolette, non perché hanno ragione, ma chiaramente hanno tutte le giustificazioni più che le ragioni, non hanno nessuna ragione, ma nessuno quella ragione la viene a vedere, quindi è proprio un anno zero, nel senso che non ci sta, cioè per il momento cioè, è tutto spaccato da tutte le parti. Eh? Ah, devo stare seduto? Ok. Ma io devo fare una domanda a Mary, vabbè, anche a tutti quanti, perché sento una forte angoscia rispetto a quello che potrebbe ancora succedere di peggio a Gaza. E questo perché mi sembra che anche nelle parole che usava Mary prima, dicendo è strano che in quel tratto di territorio non ci fossero militari israeliani, è strano che abbiano spostato questo festival vicino al confine, è strano che non abbiano reagito, che non abbiano previsto. Allora io faccio un brevissimo, non voglio fare il complottista, quindi non parlerò di cose recenti, parlo di una cosa più antica ma che mi serve per poi esprimere la mia preoccupazione e quindi la domanda. Sono usciti documenti classificati alcuni anni fa che hanno dimostrato una cosa che molti ancora, non parlo di noi compagni e compagne, ma diciamo l'opinione pubblica, non immagina neanche lontanamente. Nel 1941 l'attacco di Pearl Harbor da parte dei giapponesi era a conoscenza del governo degli Stati Uniti. Essi non esitarono a sacrificare centinaia di militari e di civili dell'isola, nelle Hawaii, per convincere l'opinione pubblica statunitense che bisognava entrare in guerra. Questo ormai è documentato. Adesso io non voglio parlare delle torri gemelle, magari un giorno si saprà di più. Però, conoscendo quello di cui sono capaci i sionisti, le cose più orrende, più nefande, non arretrano minimamente. Quindi non mi stupirei che ci fosse questa intenzione. Per fare che cosa? E questa è la cosa che veramente mi terrorizza. Per avere la giustificazione, tra virgolette, di radere al suolo Gaza, di far fuggire o massacrare la popolazione palestinese, di rioccupare Gaza sgombrata dai palestinesi e ristabilire, come nel loro programma, colonie ebraiche in territorio sgombro da palestinesi completamente, quindi la situazione per loro ideale. Ora, è forse troppo terrificante questo pensiero, lo dico perché anche nella nostra solidarietà ai palestinesi tutti, però il centrale in questo momento è quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere a Gaza. Quindi io credo che dovremmo focalizzarci molto su questo per impedire che questo scenario, magari io sarò contentissimo di aver detto una cazzata, che questo è veramente inconcepibile, però voglio proporre questa riflessione in primo luogo a Mary, che sicuramente conosce la situazione meglio di tutti noi, e poi anche a tutti gli altri. Qualcuno vuole rispondere? Il posto mio. E, E certo, quello che dicevo prima, per esempio, di questo governo israeliano, di questo governo della destra, e quindi del piano poi che Israele, che il sionismo di fatto ha sempre avuto sin dall'inizio, dal 48 in poi, ma no, non dal 48, da prima, da molto prima, tant'è che appunto tutto quello che è venuto fuori, che è stato desecretato, ma che gli stessi israeliani hanno raccontato, perché io invito sempre i giornalisti, soprattutto perché sono i media, no, che sono quelli che spingono, che dovrebbero dare il quadro storico della situazione, e spingo sempre ad andare a parlare con i tanti israeliani che stanno dentro Israele, che queste cose le hanno raccontate, soprattutto quelli che hanno fatto parte, guarda caso, dell'intelligence israeliana, e che hanno raccontato. Ci sono dei libri, ci sono tantissimi documenti storici che nessuno prende in considerazione. Mi stravolge delle volte, ho sentito anche quello dell'ISPI che ha detto delle robe allucinanti, che cioè non ci stanno proprio nei libri di storia, e uno dell'ISPI, insomma, l'Istituto Superiore di politica in questo senso, dovrebbe conoscere benissimo, che basta che vada a leggere proprio un tot di libri che hanno scritto proprio intellettuali, giornalisti, intelligence israeliana, proprio su tutto l'andamento, su come loro si sono comportati dall'inizio, ma questo appunto non dal 48, da ancora prima, quando ancora prima della Shoah, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, quando sono arrivati nei territori della Palestina, che appunto avevano intenzione già nei loro, nel progetto appunto sionista, c'era l'intenzione di riprendersi tutta quella terra promessa da Dio. Quindi lì sopra c'è scritto, ci sono scritte tutte le manipolazioni, le strumentalizzazioni, ma soprattutto le manipolazioni e quello che loro hanno combinato da questo punto di vista per giustificare tutta una serie di cose. E come lo hanno fatto, come l'hanno messo in pratica su quel territorio. Quindi si parla degli anni 20, insomma, si parla ancora, cioè nel 1920 ancora non c'era stata, non c'erano state le leggi razziali, non c'era stato l'Olocausto, non c'era stato niente di tutto questo, e che però di fatto il progetto di togliere, di riprendere quella terra per un determinato motivo, insomma, lo hanno esplorato bene. Loro lo spiegano e lo spiegano molto bene lì sopra, e ripeto, invito spesso i giornalisti a parlare, i giornalisti e quant'altro, cioè, a parlare direttamente con loro, neanche con i palestinesi, che magari pezzi di storia gli mancano in alcuni contesti, ma agli israeliani non gli mancano, perché ci hanno tutto segnato per filo e per segno rispetto al progetto preciso che avevano, che hanno sempre avuto sulla Palestina. Quindi questo è un progetto che va avanti. Oggi il governo di destra vuole il governo di destra vuole dare questa spallata, e su questo oltretutto è anche molto in contraddizione. Una cosa incredibile, per esempio, che all'interno di Israele, dove non vanno assolutamente d'accordo il Ministero della Difesa israeliano con il Ministero degli Interni israeliano, che sono le due maggiori componenti dello Stato ebraico, perché sono quelli che devono tenere il punto sull'occupazione, sulla colonizzazione, sulla presa di tutta la Palestina, non vanno assolutamente d'accordo proprio su queste, su tutta una serie di questioni che riguardano proprio come prendersi tutta la Palestina. Tant'è che sono sempre in lotta l'uno contro l'altro. Una cosa la dice il Ministero della Difesa, una cosa la dice lo Shin Bet e tutto il resto, che sono il Ministero degli Interni, e che all'interno appunto si scontrano fortemente. E anche quando fanno le operazioni militari, per esempio, ci sono questi scontri. Quindi sicuramente, insomma, sanno, hanno ben chiaro insomma quale può essere la modalità, e oggi arrivati a questo punto con quel governo questa cosa la devono mettere in pratica. Oggi hanno la possibilità, infatti oggi hanno la possibilità, e una rivolta palestinese che non è stata purtroppo la rivolta del popolo, anche se vorrebbe tanto rivoltarsi ma non ci riesce, del popolo palestinese, oggi loro si stanno prendendo il punto a favore, tant'è che appunto tutti stanno con Israele in questo momento. Io ho una domanda, ma prima voglio dire che sono molto contenta di aver che hai il compagno in arancia ha avuto il coraggio di dire questo che ci passa nella testa. Penso che gira nella testa di tanti che certamente c'è un progetto di accelerazione da parte di Israele su questa colonizzazione. È impossibile che spostano un rave sotto gli occhi proprio a un qualche chilometro di Gaza senza che ci sia un intento, e che la sedicente, la detta intelligenza israeliana, che sa sempre tutto, non è al corrente di questo. Dunque penso che è veramente un qualcosa che gira nella testa di tanti, e già penso che già da adesso, venerdì o così, si deve denunciare questo progetto. Non so come si può farlo, ma dovremmo poter osare esprimere esplicitamente questo dubbio che si ha, che non è neanche un dubbio, perché finalmente Israele lo farà se non si cerca di mettere fine a questo. Dunque nei slogan di venerdì, sì, è proprio a fianco alla resistenza del popolo palestinese, che è una resistenza straordinaria. Il Sumud palestinese è qualcosa di così bello, perché è incredibile che un popolo resiste così per più di 70 anni, e contro le guerre, contro l'imperialismo, ma veramente contro la colonizzazione, perché questo è il rubare proprio la terra di un popolo e colonizzarlo completamente. Dunque io spero che venerdì ci sono dei slogan veramente forti così. E adesso giusto la mia domanda, vorrei sapere in questo contesto se come vi ti posizioni adesso, scusate il mio italiano, con l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, con l'UDAP, che era anche vicina di Khaled, e insomma loro aderiranno, penso, venerdì. In questa situazione aderiscono bene, questo perché stasera c'era un compagno dell'UDAP che non ha potuto venire, ma altri forse ci sono, non lo so. Ok, dunque questa è la mia domanda, la posizione con l'UDAP. Allora, io da palestinese, giovane palestinese nata qui, non mi sento di esprimermi su nessun partito politico palestinese, appunto perché non conosco la realtà come appunto la può conoscere Mary, che diciamo vive più lì che qui. E per questo io mi sono sempre definita partitica. L'unica bandiera che mi rappresenta è la bandiera palestinese. E poi ovviamente il Fronte Popolare, come una parte, come Hamas, come Fatah, esistono, nessuno può negare, rappresentano il popolo palestinese. Quando un giorno la Palestina sarà libera, sarà il popolo palestinese attraverso le elezioni democratiche a decidere quale partito diciamo governerà, e non sono io qui, che non conosco quella realtà, a decidere per i palestinesi quale partito deve governare. Io da qui il mio ruolo, come il ruolo dei giovani palestinesi o comunque dei studenti palestinesi, dovrebbe essere quello di riportare la voce del popolo palestinese, le sofferenze del popolo palestinese, che cos'è l'occupazione. Io mi sento che solo questo può essere il mio ruolo da qui, essere la voce che purtroppo i media mainstream e la comunità internazionale gli toglie. Ovviamente sono contentissima del fatto che l'UDAP abbia aderito al presidio, perché da diversi anni credo non aderisca a un presidio qui a Roma, soprattutto perché, ripeto, per chi conosce un po' come io ho cercato di lavorare questi 3 anni, cercavo sempre l'unione tra i palestinesi e mai la divisione. Tanti mi hanno sempre criticato per quale motivo io finora lavoro con la comunità palestinese, perché noi organizziamo le cose con la comunità, semplicemente perché non volevo creare un'ulteriore divisione su tutte le divisioni che abbiamo qui, e per me portare le divisioni interne che abbiamo in Palestina qui non serve a nulla, serve solamente a dividere ulteriormente noi palestinesi e a dividere poi i solidali che si andrebbero a perdere nelle nostre divisioni. Quindi io quei problemi li lascerei qui, non li porterei. Mi dispiace aver prima aperto quella parentesi su ciò che è successo nell'assemblea, però forse mi sembrava opportuno un pochino spiegare, ma perché mi ha dato fastidio il modo in cui siamo stati trattati noi giovani, che ci hanno sottovalutato, che è come se noi non possiamo organizzare, che poi non è stata organizzata da noi ma tutti insieme. Cioè, ieri è stata fatta un'assemblea dove c'erano anche membri palestinesi, dove poteva partecipare la comunità e comunque dire: guarda, organizziamole insieme, facciamo le cose insieme. Non ha partecipato, quindi indire un'altra assemblea, fare un altro presidio, cioè era tutta una presa di posizione che non andava bene. Non so se la mia risposta è sufficiente, spero di sì. Allora, intanto, vabbè, grazie, perché veramente sono testimonianze e parole che ci danno tanta forza. E io volevo dire anche che c'ero all'assemblea che ha lanciato il presidio di venerdì, e siamo estremamente, io personalmente sono estremamente contento che ci sia una piazza, che alla fine la piazza sia una, che è importante riempire e dimostrare la solidarietà di Roma, da che parte sta, la solidarietà. E la storia lo dimostra anche, diciamo, di questa città e non solo di questo paese, e sarà importantissimo dimostrarlo venerdì in piazza, a maggior ragione perché stasera c'è la manifestazione dei veri terroristi, quelli che supportano Israele. Quindi è importante che venerdì invece si dia un altro tipo di segnale, che non passa nei media mainstream, che non passa nelle narrazioni ufficiali, ma che passa in questi spazi, e vogliamo che da questi spazi conquisti tutti quanti i nostri territori, perché questa città, si è parlato sempre di Palestina, è una relazione che si coltiva da anni e che non dimenticheremo per una cosa così da sabato ad oggi. E quindi ci siamo e ci saremo, insomma, per tutti gli appuntamenti, e anche, come dire, ce la siamo presa alla fine una piazza unica, quindi insomma è qualcosa pure di cui festeggiare. Tra l'altro mi sembra che la polizia manco l'ha concessa ancora definitivamente la firma finale. Penso anche che come compagni romani su questo sa dovremmo pure andare a prendere in caso, e no, e non prendersi in giro. E comunque una piazza ci sarà, c'è stata in tanti altri paesi, è importante che ci sia qua, è importante che ci siano momenti concreti di solidarietà, e per questo vengo qua a rilanciare un altro momento. Sabato 14, a partire dalla sera dalle 17 al Casale Alba 2, un momento di solidarietà, e colgo anche l'occasione per ricordare un po' quello che succede in Cisgiordania e quello che è uno dei problemi al centro di quello che sta succedendo oggi, ovvero il problema degli arresti indiscriminati che avvengono specialmente nei campi profughi, ma in tutta la West Bank e non solo. Per cui se Gaza è un carcere a cielo aperto, pure la Cisgiordania non se la passa bene. Chi è stato ad Aida Camp, chi ha conosciuto il centro Amal al-Mustaqbal, sa quanto può essere difficile la vita nel campo profughi. Il campo profughi di Aida è una realtà che si trova a Betlemme, proprio a ridosso del muro che separa da Israele. Alcuni rapporti dell'ONU hanno detto che è il luogo con lancio di lacrimogeni più alto al mondo, è un posto dove però con tanta fatica alcuni abitanti e alcune donne hanno aperto un centro che funziona da asilo, funziona per i bambini, c'è una parete di arrampicata, attività per donne, attività per bambini, è un posto di sumud, di resistenza, che è venuto attaccato ormai 9 mesi fa. 4 attivisti di questo centro sono stati arrestati, sono compagni che portavano la voce palestinese con forza, forse qualcuno di voi ha conosciuto Bilal e sa che è in carcere da 9 mesi, e si aggiunge un pezzettino ulteriore, quindi di repressione. Non ci sono, ovviamente qua diciamo oggi si è aperto un po' un vaso di Pandora, ci sarebbe tantissimo da parlare, che cos'è il limbo della detenzione amministrativa, Bilal è finito 9 mesi in carcere, non si sa l'accusa, si sa adesso all'ultimo, e l'accusa ovviamente è una cazzata perché non hanno trovato nessuna prova per fornire un'accusa seria, per cui lui avrebbe già scontato senza accusa tutto il tempo che la pena prevede e deve pagare 8.000 euro di cauzione, no? Sappiamo queste cauzioni, è l'ulteriore repressione, è quella economica che si aggiunge, oltre al danno la beffa, e non è l'unico, no? Sappiamo anche di Khaled. Quindi insomma è assolutamente importante partecipare a questo momento, abbiamo invitato queste due voci che speriamo insomma possano arricchire e dare uno sguardo più approfondito di quello che possiamo noi, abbiamo invitato un altro ragazzo che sta a Gaza, un giornalista, che speriamo di riuscire a collegarci, ovviamente è difficile garantire collegamenti con la striscia in questo momento. E quindi rinnovo questo appuntamento, che è una serata che andrà completamente benefit per il Centro Amal al-Mustaqbal e in sostegno di questa storia che vi ho raccontato, e quindi è importante esserci dalle 7 di questo sabato, così come ovviamente prima di tutto è importante esserci in piazza, è importante creare altri momenti come questo e rinnovare la solidarietà e fare contronarrazione, perché non ne possiamo più di ascoltare la merda che passano i telegiornali costantemente e la merda che si vede davanti al Campidoglio, al Quirinale, con la bandiera della pace e la bandiera di Israele vicina. La bandiera di Israele vicina alla bandiera della la pace è un insulto alla bandiera della pace, e questo non ce lo toglierà mai nessuno. Non so se c'è qualcun altro, qualcun'altra che vuole anche solo esprimersi, domande. Senza paura, nemmeno io sono abituata a parlare davanti a tante persone, Vale. E buonasera a tutti, no, io volevo dire soltanto al volo innanzitutto che è bellissimo essere tutte queste persone qua che poi dirameranno tutto questo chissà dove, e detto questo all'assemblea di ieri ci stava un po' di gente di noi, e tra le varie cose che sono uscite c'è stata quella proprio di fare un grosso impatto sulla comunicazione e distruggere questa comunicazione tossica di Israele sofferente per colpa dei terroristi. E l'idea che era uscita ieri, e vedo facce che c'erano anche ieri appunto, era quella di tappezzare Roma di manifesti della Palestina, e quindi prima, temendo che qualcuno vada via, perché comunque è già un po' che siamo qua, volevo dire che uscendo dalla porta del Forte sulla destra, cioè sul tavolo sono stati stampati dal Forte 500 manifesti, chiunque ha modo, dove vuole, come può tappezzare il proprio quartiere. E quindi l'immagine che ci eravamo creati ieri, che di Palazzo Chigi alla fine a noi ce ne frega niente, non ci appartiene, e che però tutto il resto di Roma, il popolo di Roma, sarebbe bello che fosse tutto quanto colorato in solidarietà del popolo palestinese, perché è questo quello che sarebbe bello che emerga in qualche modo come un cazzotto in faccia a questa narrazione tossica. Quindi prendete i manifesti, se servirà li ristamperemo. L'idea folle era che domani mattina, nella data nazionale italiana, tutta Roma fosse tappezzata di questi manifesti. Adesso sono le 10 di sera, siamo ancora tutti qua, quindi non so se ci riusciremo, però chiunque poi ne prenda e dai e yalla. Non lo so, Mary, vuoi concludere tu? Oh no, no, c'è un'altra persona. Ok. Ciao a tutti e a tutte. E intanto grazie a tutti e a tutte per aver ricreato un momento come questo dove poterci comunque rincontrare, parlare e condividere anche in qualche modo metabolizzare insieme quello che sta accadendo, perché sicuramente a distanza di così poche ore io personalmente non credo di avere appieno diciamo la lucidità di poter leggere quello che è accaduto. E quindi forse proverò a parlare un po' più per emozione anche, perché credo che tutti quelli che stanno qui, tutti e tutte quelle coloro insomma che stanno qui, e molti ne riconosco i volti di chi insieme abbiamo affrontato anche insomma i viaggi in Palestina e abbiamo conosciuto insieme quello che è la realtà giù in Palestina, siamo e condividiamo tutti da che parte stare e leggiamo tutti questa storia nella stessa identica maniera. E quindi vorrei condividere con voi un po' quello che a me, da compagna, ha creato un po' delle contraddizioni, perché se l'immagine del bulldozer che sfonda il muro mi provoca un'emozione di gioia, mi rievoca la libertà di riprendermi un qualcosa che è mio, l'immagine di quella donna, sicuramente martoriata, perché dalla posizione naturale non mi sembra che stesse molto bene, sporca di sangue in volto e sputata ripetutamente al grido di Dio è grande, beh, quella a me è un'immagine che non mi rappresenta. E questo io credo che come compagni e compagne dobbiamo avere il coraggio di poterlo dire, perché ecco, io quell'atto lì, e ancora una volta vediamo che è sempre un corpo di una donna che viene esibito come un trofeo di guerra. Io ho questa logica di propaganda, di guerra, da compagna credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di guardarci negli occhi e dirci che a noi ci fa schifo, perché Hamas non è la Palestina. E noi, io credo che nei nostri numerosi viaggi che abbiamo fatto in questi anni, se il nostro ruolo di osservatori internazionali, di parte sicuramente, ma di osservatori internazionali, ci è stato potuto permettere di conoscere dal vivo, dal vero, che cos'è l'ingiustizia sociale e l'ineguaglianza, quanto ci fanno schifo vedere e affrontare e attraversare quei campi senza acqua, senza corrente, sotto continue minacce, bombardamenti e invasioni, e dall'altra parte mentre attraversavi e passavi da un campo all'altro vedevi le ville dai pullman che erano un po' più alti, riuscivi a vedere oltre il muro e vedevi queste ville con la piscina e il pratino all'inglese. Io credo che se questi viaggi finora e il nostro lavoro anche da osservatori internazionali ha un senso metterlo in piedi ora e dargli quel valore che in questo momento quei media non stanno dando. Io alla logica delle due fazioni di o sei con Israele o sei con Hamas, non ci dobbiamo cadere in questa facile e semplicista visione. Quindi io credo che è anche capire, no, anche il nostro ruolo, perché noi siamo qui in un paese privilegiato, la guerra non è che l'abbiamo mai vissuta sulle nostre spalle, alla fine siamo stati dei viaggiatori che però se ha avuto un senso il nostro viaggio, dobbiamo capire che senso darne ora. E quindi anche qui io credo che è giunto il momento di raccontare quello che ognuno di noi appunto ha visto, ha potuto vedere, no? Se ancora insomma dopo anche la morte di Rachel Corrie credo che l'internazionale non valga più un cazzo, però poter raccontare noi quello che anche abbiamo visto, e quindi capire anche qual è il nostro ruolo adesso in Italia, in un paese dove in tutte le TV, in tutti i talk show, perché è lì, regà, sulla Rai, su Mediaset, sulla TV del medio streaming che si dibattono e si cominciano a costruire delle visioni che sono tossiche. E allora io credo che dobbiamo capire come smontare queste narrazioni tossiche e raccontare che la Palestina non è Hamas e raccontare quello che accade, perché a oggi quello che sta accadendo è che Gaza non ha corrente, non ha acqua, gli sono stati tagliati tutti i beni necessari per vivere, e questa comunità non fa altro che mettere bandiere sui palazzi e inviare armi. Quindi io credo che anche dal punto pratico dobbiamo capire come smontare la narrazione tossica e riuscire a parlare e far parlare quel popolo palestinese che sempre con un'ottica anche che ci dobbiamo riconoscere, no? E dire perché poi c'è anche la difficoltà di dire, cioè mettersi contro Hamas. Io credo che sia un po' un pensiero che possa avere un'analogia con la mafia, no? Cioè è vero che chi sta in silenzio è complice, ma batta a mettere contro uno che poi sersi poco poco la testa t'ammazza, come da una parte e come da un'altra. Allora noi dobbiamo dare voce a quel popolo che è fra due fuochi, perché a noi compagni e compagne Hamas non ci rappresenta. Io credo che questo è anche un dato che dobbiamo dirci, al di là delle forme e di quello che insomma abbia rappresentato, diciamo appunto, un atto di resistenza a dei supplusi che durano da 75 anni. Quindi io credo che noi dobbiamo capire qual è il nostro ruolo anche qui in Italia, in un paese che si sta mobilitando, da dove tutti insomma le parti, dai TG mainstream, si stanno esponendo con appunto che se poco poco adesso sventoli una bandiera israeliana, una bandiera palestinese, sei un terrorista e segui Hamas, e quindi va ripristinata una narrazione giusta per quello che è. Quindi insomma chiediamo anche, io credo che sia necessario anche qui avere persone come te, anche Mary, che ci sappiano in qualche modo anche guidare e a riuscire diciamo, a uscire da questa nebbia e essere mano a mano un po' più lucidi in questa cosa. Anche perché, e finisco, sicuramente organizzare un festival in un luogo di guerra è qualcosa di inimmaginabile. Io credo che sia un qualcosa che ci dobbiamo dire che è impensabile. Dopodiché dobbiamo anche dirci che quello, il festival, il momento della festa, no, quello non era un campo di battaglia, e anche su questo secondo me c'è una piccola differenza, ripeto, tra l'immagine di libertà che mi rappresenta quel bulldozer che sfonda quel cazzo di muro. Grazie Mary, grazie a tutti e tutte. Ma noi in realtà, oltretutto, i festival proviamo a farli anche dentro la striscia di Gaza, in quella situazione, tant'è che il progetto Gaza Freestyle, che è uno dei progetti che va avanti da 10 anni, che ha visto il coinvolgimento di, beh, ormai direi migliaia di ragazzi, compagni, compagne, un sacco di gente che è venuta giù, che appunto ha avuto la possibilità di entrare dentro la striscia di Gaza, con attività rivolte soprattutto a quella che dicevo appunto essere la nuova generazione che chiedeva un mondo, degli elementi di vita diversi da quelli che si vivono dentro la galera Gaza. E dentro questi scambi in genere vengono fatte attività di tutti i generi, culturali, sportive, definite purtroppo molto frivole sempre da questa autorità di Hamas, che ha cercato anche in tutti i modi di bloccarle, non è mai stata molto contenta, diciamo che alla fine ha dovuto cedere per pressioni di soggetti interni più intelligenti di altri, che hanno dato la possibilità di entrare, perché paradossalmente riesce a varcare Erez, ma dall'altra ti trovi il checkpoint di Hamas che ti dice no, non entri, magari ne entrano solo 10, perché questi che vogliono, cosa vengono a fare, chi sono, eccetera, non appunto coniugando assolutamente i voleri, le necessità, le richieste della nuova generazione palestinese, che appunto vuole altro e che da sola non riesce assolutamente a imporsi e a chiederlo. E ci hanno anche lo scorso anno hanno provato a non far entrare una carovana di un centinaio di persone, per esempio, dentro Gaza. Abbiamo dovuto fare il diavolo a quattro per riuscire a entrare dentro con tutti quanti, perché per loro per loro non è assolutamente necessaria una cosa del genere, non hanno bisogno di quello. Non è vero, non hanno, è certo che il loro bisogno primario è la liberazione di quel posto, nessuno lo mette in dubbio, però certo che se oggi, dopo un'azione del genere di Hamas, devo paragonare quale modalità hanno imposto in qualche modo per quella popolazione all'interno di Gaza, certo mi vengono dei grossissimi dubbi, perché in questo momento tutta la popolazione di Gaza sta scappando dalle proprie case, che vengono bombardate, vi posso leggere tutti i messaggi che mi arrivano, che vengono bombardate una dopo l'altra, perché Israele sa bene come dare la punizione collettiva, li sta spingendo verso l'Egitto, che non li vuole neanche far uscire o entrare o andare da qualche parte, non se ne vuole prendere assolutamente la responsabilità, e che quindi in questo momento vengono bombardati, l'Egitto non li fa entrare e vengono bombardati sulla frontiera di Rafa, e quindi se devo paragonare queste due situazioni, appunto una che è quella della necessità della festa e quest'altra rivolta da quest'altra parte in questo modo, sicuramente insomma purtroppo devo dire che hanno spinto quella popolazione a una nuova Nakba, a una nuova catastrofe, stanno finendo nel baratro. Io tempo fa la definivo, avevo così la sensazione che stava per arrivare una soluzione finale per i palestinesi, purtroppo conoscendo le disgraziate divisioni interne, la poca lucidità e una leadership che purtroppo insomma non hanno, o comunque non danno la possibilità ad altri di avere possibilità diverse di esprimersi, sempre considerando che sono sotto l'occupazione israeliana e che comunque appunto quella è sicuramente la loro prima idea di liberazione, ma che comunque non può andare avanti e non può essere se non pari passo a un altro tipo di liberazione, che è proprio quella mentale che lì dentro purtroppo viene assolutamente negata. In questo momento ci sono, l'ultima notizia che stavo leggendo lì sopra è che la Giordania ha aperto il paese all'installazione delle basi americane per attaccare. Quindi direi che il conflitto si sta allargando notevolmente. Ulteriori interventi o delle domande? Allora, io dico una cosa, sarò abbastanza breve, e in realtà poi mentre venivo mi è venuta una domanda mentre ci pensavo. Allora, noi abbiamo una situazione in cui adesso Israele sta usando di nuovo il fosforo bianco sui palestinesi. Abbiamo una situazione di occupazione che va avanti da 75 anni e adesso stiamo discutendo della divisione che c'è all'interno dei palestinesi, no? Si parla di Hamas, si parla del fronte popolare, si parla delle divisioni in termini di forze politiche, e va benissimo questa cosa, noi fra compagni la dobbiamo dire, è una discussione che dobbiamo continuare con ogni mezzo. L'importante è fare attenzione su questo tema, perché ci mettono un attimo i media a prendere, a fare leva su questa cosa e a dire che è allora anche la popolazione palestinese, è contro Hamas, quindi è contro la resistenza palestinese, quindi la resistenza palestinese che secondo i media occidentali è Hamas, ma noi sappiamo benissimo che non è così, non vale nulla. Questo è un punto su cui dobbiamo fare molta molta attenzione, perché ripeto, la situazione comunque è tragica, Gaza è praticamente isolata dal mondo, cioè è infatti la domanda che io volevo porre, cioè adesso se uno volesse inviare cibo, medicine, cioè non c'è un canale possibile, no, sì, anche prima, però qualcosa, diciamo, si poteva pure far arrivare, ma adesso penso sia proprio, quindi abbiamo una popolazione messa in questa situazione ed è assurdo che in questo momento tutti i media e anche tutte le forze politiche internazionali stiano dando ragione a Israele nonostante quello che Israele fa da tantissimi anni. Perciò solo questo forse non è un invito, è solo un ragionamento che secondo me dovremmo fare e che è importante che all'esterno si faccia sempre quadrato attorno alla resistenza palestinese. Poi per quanto riguarda quello che c'è all'interno della Palestina, sicuramente se ne può sempre parlare. Finito qua. Mary. Ciao a tutti. No, io mi chiedevo più che altro, nonostante diciamo tutto, mi ricollego un po' agli interventi pure precedenti con cui sono d'accordo, però che nonostante insomma questa azione poi da un certo punto di vista chiaramente crei entusiasmo, perché comunque la battaglia contro l'oppressore genera entusiasmo soprattutto dei compagni insomma e per il sostegno che diamo alla Palestina, però appunto se questa azione poi non sia veramente più controproducente che altro, nonostante io non sia assolutamente contraria agli atti rivoluzionari in generale, che comunque comportano guerra, comportano morti, comportano tante atrocità, però appunto questa cosa di unire Hamas al resto del popolo palestinese forse non è qualcosa di cui da glorificare, no, però questo sostegno, no, perché anche il ragazzo prima diceva di creare sostegno compatto a prescindere, no? Diciamo in un certo senso, però appunto se questa cosa non possa essere in realtà appunto anche possibilmente pilotata dall'alto, perché come dicevano anche in precedenza non è casuale che ci sia stata insomma una festa vicino al confine e oltretutto 50 anni dopo l'anniversario della guerra del Kippur, che voglio dire se lo dovevano pure un po' aspettare visto che capita proprio il 6 e il 7 c'è stato questo attacco, insomma è un po' strana, nonostante l'entusiasmo che crea anche il fatto che siano arrivati con dei mezzi anche abbastanza creativi, ecco, cioè che crea entusiasmo questa cosa. Però diciamo che è un po' strano almeno che insomma un'intelligence come quella israeliana abbia avuto questa defiance proprio in quel momento. Oltre a questo, il fatto anche che bisogna capire cosa noi speriamo, cioè una sconfitta militare, io credo che sia impossibile, cioè nonostante insomma si possa creare molto danno, molto disagio, ma una sconfitta militare diciamo israeliana, oltre al fatto che è la seconda potenza militare al mondo, consideriamo anche i suoi sostenitori, i suoi alleati che insomma che non sono facilmente diciamo facilmente abbattibili, ecco. E allora mi chiedo se quest'atto debba essere visto come qualcosa, come una vendetta sterile che comunque forse qualcuno può anche giustificare, oppure appunto dobbiamo pensare a qualcosa di più incisivo, anche perché diciamo se noi fossimo diciamo in grado di sostenere i palestinesi con armi, no? Non so, andremmo veramente ad armare Hamas nonostante tutto? Cioè sarebbe un po', forse mi viene questa analogia, forse impropria, però è un po' simile a quando gli Stati Uniti hanno armato l'Iraq, insomma, e poi gli è tornato contro questa cosa. Quindi insomma noi non penso che siamo insomma a favore o comunque sosteniamo il fondamentalismo religioso di Hamas in ogni caso, anche per tutto quello che comporta. Comunque appunto mi chiedo se non è, come diceva la ragazza prima, se non è forse più importante sottolineare questa differenza, ma soprattutto prendere il controllo di quello che è veramente il potere in questo momento, su cui possiamo agire, che non è il militare chiaramente, ma è quello dei media. Cioè se riusciamo veramente invece ad avere un impatto su questo, penso che forse potrebbe essere la strategia migliore, ecco, non so. Sì, sono completamente d'accordo su questo, infatti volevo dire, insomma, in questi giorni chiaramente i media che sono stati assolutamente lontani in tutto sto periodo dalla Palestina, nessuno si è mai occupato di quello che stava appunto succedendo, non ha mai fatto ricerca o non si è mai interessato, nonostante gli arrivassero i messaggi, guarda che lì stanno ammazzando, Israele sta ammazzando, prima o poi succede. I media non si sono occupati assolutamente di tutto quello che stava succedendo, non aveva assolutamente interesse, proprio perché non aveva nessun input né economico né politico per dar forza alla voce dei palestinesi, per dar forza ai palestinesi, quindi è vero. Adesso si trovano con tutta questa con tutto sto disastro, mi stanno chiamando, a me mi chiamano dalle 6 dall'alba, insomma da quando è cominciata tutta la roba, dacci i contatti, parlaci, dici, facci bla bla bla, perché non hanno nessun contatto lì, però chiaramente qualcuno magari che sta dentro i nostri media, che ne so, pensa all'ANSA, ma avranno chiamato 50 diversi dell'ANSA, che oltretutto io gliele do le notizie, effettivamente loro le stanno anche pubblicando, poi chiaramente dico guarda che io in questo momento, loro sono abituati che io sto a Gaza e quindi nei momenti di guerra mi chiamano e bla bla bla, non ci sto, quindi io ti do i contatti di gente che può parlare direttamente da giù, che è meglio, però capisco che effettivamente c'è questa necessità per qualcuno che forse è disponibile nei media ad ascoltare e che infatti invito assolutamente ad avere a fare una campagna da questo punto di vista, insomma bisogna effettivamente, come dicevi, dare una visione, un'idea completamente diversa. Vorrei che la dessero chiaramente i palestinesi il più lucidamente possibile. Non lo so se ci stanno riuscendo, però insomma no, perché non ho visto tanti palestinesi nelle varie chiacchierate dei media, se non in alcune di Al Jazeera o altre TV, diciamo, dove li riescono a contattare. Quelli italiani assolutamente no. Ma oggi tipo mi avrà chiamato Rai 1, Rai 2, Rai 3, La 7, mi hanno prenotato per Piazza Pulita. Che cazzo è Piazza Pulita, non lo so, un programma, però mi hanno detto se ci vado, mi hanno detto non andare da nessun'altra parte, prima vieni a Piazza Pulita. Vabbè, andremo a fare sta Piazza Pulita giovedì, mi sembra, non lo so quando cazzo è. Ah, ti hanno contattato. E vabbè, insomma, tutte queste robe qua sulla 7, No, io non lo so perché appunto non è, cioè giusto quando ritorno vedo tutta sta roba qua. Però evidentemente qualcuno, che ne so, magari vuole capire, e ok, vabbè, ci prestiamo però invito effettivamente chi ha la possibilità, e lo so che ci sono tanti, insomma, anche qui dentro che lavorano con i media, fortunatamente riescono a infilare, insomma, dentro la RAI, dentro, insomma, alcune televisioni riescono a infilare informazioni. Io ne conosco tantissimi, perché tantissimi me li sono portati nella striscia di Gaza a far vedere, e hanno fatto anche delle cose fatte molto molto bene, quantomeno una goccia, però quantomeno sono riusciti a darla e comunque a parlare e a vedere effettivamente la situazione. Però ecco, ripeto, sicuramente visto che le guerre, come sappiamo, sono molto anche mediatiche, quantomeno riuscire, insomma, ad arrivarci e fare il possibile, insomma, per parlarne. Ciao, grazie. Ci sciogliamo, abbiamo altro. Io brevissimamente, se riparlo, però. Cioè, vorrei anche sottolineare i punti di congiunzione tra le diverse posizioni che emergono, perché le spaccature ci sono in Palestina, ci sono pure in Italia, a Roma e come. Però è giusto farsi tutti i discorsi critici che abbiamo fatto, assolutamente, anche rispetto a quello che è il nostro supporto alla causa, e è importante esserne consapevoli, anche perché sennò la narrazione mainstream ci si mangia. Però è importante anche che per ribaltarla usiamo i nostri corpi, scendiamo in piazza, perché poi non tutti scrivono nel giornale, invece possiamo tutti scendere in piazza, e quello è un messaggio importante, così come possiamo darci delle parole con intelligenza che possano essere condivise e allargate. E ovviamente uscire dallo scacco matto Hamas-Israele è la prima cosa, questo è chiaro. Nessuno sta là per dire, ma non solo, cioè io aggiungerei pure che io non supporto, non ho mai supportato Hamas, non ho mai supportato manco Fatah, perché gli accordi di Oslo mi fanno schifo e non supporto il mio governo, quindi neanche lo Stato-Nazione mi sta tanto bene, non credo che sia la soluzione finale. Quindi poi, se andiamo a stringere, le unioni ci sono, facciamole valere, scendiamo in piazza venerdì, venite al Casale Alba 2 sabato, è importante per portare solidarietà, per continuare a parlare, perché ce n'è bisogno, oggi abbiamo aperto un vaso di Pandora. Esatto, nell'altra piazza c'è comunque una festa della comunità senegalese, se volete andare, no, attaccarli mai, però approfittare, cioè approvece in spagnolo. Vabbè, sì, rilanciamo ancora una volta la piazza, comunque ci vediamo venerdì, e grazie davvero. Piazza della Repubblica alle 18, bandiere palestinesi. Grazie davvero a tutte le persone che siamo, perché penso sia stato un momento molto, molto importante.